9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 7 di febbraio, auguri a chi ha nome Teodoro, visto questo è il santo che si festeggia, anche oggi Dorse, anche oggi qualche brevissimo spunto dalla stampa internazionale. Prima di arrivare al tema del giorno, il tema del giorno, come lo abbiamo lanciato, è questo: cosa abbiamo da riflettere, che cosa abbiamo da imparare, cosa eventualmente da importare dalle profonde riforme del mercato del lavoro, del welfare che la Germania ha varato nei primi anni 2000, i quattro pacchetti Hartz in particolare per il mercato del lavoro, e che hanno fatto insieme ad altre scelte, certo insieme a rigore, a meno spesa e a meno tasse, e insieme a grandi contratti di produttività, ma che pure con una riforma così energica del mercato del lavoro hanno contribuito a passare al record di disoccupazione che la Germania aveva negli anni 2002-2003, pensate era più del 10,4%, 5 milioni e mezzo di disoccupati, al contrario al dato di questo gennaio che è il record positivo da decenni, e con una disoccupazione dimezzata e quindi con 2 milioni e mezzo di posti di lavoro aggiuntivi creati, e una disoccupazione che dal 10,4 è passata al 5,5. Approfondiremo quindi i pacchetti Hartz e che cosa ci insegnano. Prima brevissimi cenni dalla stampa europea. L'attenzione di tutti è inevitabile, è sulla vicenda greca. L'accordo raggiunto da finalizzare, dice Katemerini, è intorno a 2 miliardi e mezzo di tagli aggiuntivi, che per 1.1 miliardi verranno dai tagli alla spesa sanitaria e farmaceutica. Poi ci sono altri 300 milioni di euro di tassi nella difesa e 300 milioni ancora da definire, ma come vedete mancano ancora 850 milioni di tagli e le voci specifiche dovrebbero essere identificate oggi, quindi si attende questa lista perché i mercati possano tirare un respiro di sollievo. C'è il taglio del 20-22% del salario minimo, che era di 751 euro lordi mensili, e sono circa 300.000 greci che lo ricevono e avranno un taglio di un quinto, fino a un quinto della loro somma. E è tornato sul tema il taglio delle residue tredicesime e quattordicesime del settore privato, ma su questo l'accordo specifico ieri non è ancora venuto. I tagli aggiuntivi al settore pubblico identificati, questo secondo il ministro delle riforme Dimitris Repas, sarebbe limitato in 15.000 lavori pubblici entro la fine di quest'anno, ed è il primo passo per i 150.000 posti pubblici in meno che sono richiesti dalla Troica. Capite che tra 15.000 e 150.000 c'è di che legittimare i sospetti, le preoccupazioni che il governo greco, successivo alle prossime elezioni che si dovranno ritenere dopo questo accordo, possa rimangiarsi tutto. Ed è per questo, ci informa il Financial Times di oggi, che Angela Merkel avrebbe concordato con Nicolas Sarkozy l'idea di devolvere gli aiuti alla Grecia, non tanto direttamente al governo greco, ma un fondo a parte per consentire poi il pagamento dei titoli del debito pubblico, al di là dell'entità della ristrutturazione di quelli che sono in circolo, per consentire cioè di avere in mano una specie di arma che induca i greci a non fare scherzetti. E l'articolo Financial Times riporta che il giudizio di Sarkozy sarebbe a questa proposta, stiamo parlando di cose non ufficiali, sarebbe stato: beh sì, è comunque meglio l'idea del commissario. Paul Krugman sul suo blog boccia questo accordo greco e dice che una riduzione rispetto a quelli che erano i saggi tendenziali precedenti della spesa pubblica a livello del 65%, è semplicemente qualche cosa che non può reggere alla prova dei fatti. Da Le Monde di ieri pomeriggio, giudicato interessante l'editoriale di Arnaud Le Parmentier dedicato all'incontro franco-tedesco. Sapete che Sarkozy e Merkel ieri sera sono andati in televisione insieme. Il commento di Le Monde era un commento non tenero verso il presidente francese. Ancora una volta la Francia è sulla linea difensiva, scriveva Le Parmentier, ed è sempre più evidente da che grazie al nostro ignorare le reali condizioni della finanza pubblica francese rispetto al procedere della crisi europea, abbiamo perso la tripla A. Il Bild, quindi il giornale iperpopolare tedesco, dice 6 milioni di lettori, tra virgolette, in prima pagina, perché Sarkozy ammira così tanto il cancelliere tedesco, e il Bild riporta in grande evidenza la dichiarazione che ha fatto il presidente francese ieri in televisione, in cui ha detto di ammirare questa donna che guida 80 milioni di tedeschi con tanto successo in una crisi così impegnativa. E il Bild riporta gli impegni del presidente francese, che ha aggiunto di volersi impegnare su un modello tedesco. Per 15 volte nelle sue dichiarazioni televisive ieri sera Sarkozy ha parlato di modello tedesco. Intanto ci dice il Rheinische Post, intervistando il Hannelore Kraft, il primo ministro della Nordrhein-Westfalia e vicepresidente dell'SPD dei socialdemocratici, come il cancelliere tedesco dà una mano in campagna elettorale al candidato dell'UMP Sarkozy, allo stesso modo l'SPD intende dare una mano ad Hollande, che resta in testa ai sondaggi. Infine, sul Paese, Joseph Stiglitz condivide l'idea sul Paese che i programmi di ristrutturazione volontaria delle finanze pubbliche e del Fiscal Pact siano frutto di un errore di impostazione e siano profondamente antidemocratici. Sulla antidemocraticità in particolare Stiglitz si sofferma sul caso greco, e la sua conclusione è che il comportamento della BCE in questa vicenda non dovrebbe sorprenderci, perché le istituzioni che non sono responsabili in maniera diretta e democratica tendono ad essere catturati da interessi speciali. Devo dirvi che non condivido praticamente in nulla, come spesso mi capita, questa analisi di Stiglitz. Allora, al punto di oggi, brevissima introduzione prima di presentarvi i nostri ospiti. Cosa succede in Germania? L'abbiamo detto all'inizio. Siamo passati dal record storico di disoccupazione all'inizio degli anni 2000 a una disoccupazione inferiore della metà, a poco superiore al 5%, con 2 milioni e mezzo di posti di lavoro netto creati dal 2003-2004, gli anni del record, a oggi. Certo, è figlio della crescita del PIL al più 3,6 nel 2010, al più 3 nel 2011, al netto dell'ultimo trimestre, che anche per la Germania ha iniziato a vedere un rallentamento, però questo miglioramento è dovuto, oltre che alla disciplina di bilancio, meno spesa, meno tasse, oltre che ai contratti di produttività in tutte le imprese tedesche, ne abbiamo parlato tante volte, che hanno consentito di rallentare il costo del lavoro, difendere base occupazionale in cambio di più lavoro, non per più salario, ma talvolta anche per meno salario, pur di difendere il perimetro produttivo, e posponendo poi il dividendo una volta che si fossero difesi i parametri di produttività. Queste sono le ragioni di fondo per cui la Germania ha accumulato 30 punti di produttività più dell'Italia. Però tutto questo con corso molto anche una riforma profonda, energica, decisa del mercato del lavoro e del welfare. Questa almeno è la mia opinione. I quattro pacchetti Hartz sono stati varati nel 2002-2003. e sono stati varati per decisione all'epoca del governo socialdemocratico guidato da Schröder. Peter Harz, che dà il loro nome, era l'ex capo del personale della Volkswagen, quindi conosceva bene il suo mestiere, per così dire, sapeva dove mettere le mani. E la mia opinione è che ci sono almeno quattro cose che mi hanno sempre colpito del modello tedesco. Non ho alcuna pretesa ovviamente di spiegarlo io, ma ci sono quattro cose che in quelle riforme mi colpirono rispetto a dei tabù che in Italia, oggi che il tavolo della riforma è aperto con il ministro Fornero e con Monti, ancora per molti sono appunto tabù. E per esempio, comincio da quella più delicata, perché i licenziamenti. Con i pacchetti Harz si decise di non applicare la precedente tutela prevista nella legge dei licenziamenti tedeschi. Lì la soglia è 10 dipendenti, da noi è 15 nello statuto. Si decise di non applicare la precedente tutela per quelle aziende che con nuovi assunti superavano dal 2004 in avanti la soglia dei 10 dipendenti, prima cosa, e con i pacchetti Harz si decise di consentire a tutti i dipendenti un'opzione di rinuncia alla tutela giudiziale prevista dalla precedente legge in cambio di un indennizzo, e questo indennizzo era pari a mezza mensilità per ogni anno di anzianità. Quindi, primo, questa è l'idea al centro del pacchetto Harz, dei pacchetti Harz sulla licenziabilità. Secondo, sull'equivalente della nostra CIG, che da noi c'è una specie di accordo generale che vede imprese ma anche sindacato dire: non tocchiamo il meccanismo della CIG per il momento, dell'ordinaria e straordinaria, perché altrimenti con la crisi che c'è andiamo per aria. Condivido la prudenza, per carità. In Germania si decise diversamente, perché non solo si riformò l'intero impianto del collocamento pubblico in un'ottica pubblico-privata, in un'ottica sussidiaria aperta alla somministrazione di lavoro sia a tempo indeterminato sia determinato, e col part-time. La legge sul part-time era precedente, la legge sul part-time poi è stata molto estesa a fine 2008 quando è arrivato il morso della crisi, perché si è consentito anche 6 mesi di pausa rimanendo in part-time per far consentire alle imprese di capire se ti possono riassorbire o meno. Questo ha consentito di fronteggiare i picchi di disoccupazione del 2009 con questa estensione di un part-time straordinario. Ma il problema è che, come vedete, che questo meccanismo dura 6 mesi e dentro 6 mesi poi l'azienda deve decidere. Ora, quindi, ai fini di una maggiore occupabilità, le decisioni per le ristrutturazioni contenute in 6 mesi contrastano con i tempi invece protratti anni della nostra cassa integrazione in deroga. Quindi, seconda cosa su cui riflettere, oltre all'intervento sui licenziamenti, quello della durata entro i quali arrivare alla decisione se ristrutturare o meno. Quello è un sistema concepito per consentire alle imprese di ristrutturarsi rapidamente, di licenziare quando necessario e di assumere altrettanto rapidamente. Il nostro è un sistema con i tempi lunghissimi e tutti li difendiamo perché pensiamo che così ci sono più chance di difendere il lavoro dov'è, com'è. Terza cosa, da noi si pensa che per fronteggiare il precariato e quindi qualifiche basse con rapporti precari pagati male, spesso in nero, sia necessario imboccare la strada di alzare i contributi e rendere la cosa più costosa. Questo più o meno è un altro mantra italiano. In Germania si è fatta la cosa opposta. Per quello che si chiama, per i mini jobs, cioè la precarietà in nero a bassa qualifica, non si è affatto pensato che fosse utile alzarne il costo, alzare i contributi. Al limite si è pensato così: o li inaridiamo, li facciamo finire, oppure li rendiamo ancora più convenienti in nero. Tant'è che in Germania, coi pacchetti Harz, si è deciso di innalzare la quota di salario non soggetta a imposizione fiscale di qualunque genere. All'epoca si mise questa asticella a 400 euro e di tenere fino a 800 euro aliquote fiscali contributive ridotte, molto ridotte, non più alte. Quindi anche a me questa cosa sembra completamente diversa da quello che si pensa in Italia, tant'è vero che si diede un incentivo ai lavoratori disoccupati che volessero, fossero intenzionati a creare delle mini imprese che offrono servizi in mansioni non complesse, si chiamano HIHAG, e queste fondate dai disoccupati gli si dà un'aliquota che è del 10% fino a 25.000 euro di reddito l'anno. E oltretutto questa agevolazione, pensate, 10% fino a 25.000 euro di reddito l'anno, sale ulteriormente se ci avete dei familiari implicati nell'azienda. Quindi anche su questo terzo punto, oltre che alla licenziabilità e oltre che ai tempi più rapidi per decidere le ristrutturazioni, precariato e lavoro nero, i contributi e imposte più basse, costi e contributi più bassi, non più alti. Ecco, questo per dire già i primi tre punti su cui secondo me c'è un elemento su cui riflettere. Poi ce n'è un altro, il quarto, è quello l'integrazione del reddito. L'integrazione del reddito che si fece con i pacchetti ART è stato quello di separare nettamente il sussidio di disoccupazione dall'integrazione del minimo sociale, il sussidio sociale, che prima erano uniti e si potevano percepire anche in maniera distinta, e lì al contrario si è deciso che il sussidio di disoccupazione, che è quello assicurativo contributivo, quindi a carico proprio delle imprese, è stato ridotto, non aumentato, ma ridotto rispetto a come era prima, che durava fino a 32 mesi e dura 12, eccezionalmente 18, è parametrato all'età naturalmente del disoccupato, il 60% del salario, che arriva al 60% con un figlio a carico. Il problema è che tu non ti puoi sottrarre a proposte di occupazione che ti vengano dal servizio di collocamento riformato, quello pubblico-privato, e questo sussidio per le persone in grado di lavorare appunto non è più cumulabile con il sussidio sociale, ecco. Mentre invece il sussidio sociale, quello a carico della fiscalità generale, che dà contributi per la casa, eccetera, eccetera, e gestito dai comuni, è quello riservato agli inabili al lavoro per almeno 3 ore al giorno. Inabili al lavoro. E a questi i comuni si riservano di offrire lavori socialmente utili, ripeto, a un prezzo però, a un costo, anzi a una retribuzione, scusatemi, che in Italia farebbe inorridire tutti, perché la retribuzione parte fino a 3 euro, talvolta anche inferiore l'ora, a questi inabili al lavoro per più di 3 ore al giorno, che sono quelli del sussidio sociale. Allora, riflettiamoci. A me sembra che sui licenziamenti, tempi di ristrutturazione, integrazioni al reddito, in particolare la loro durata, e modi di fronteggiare precariato e lavoro nero, i pacchetti ARS dicano cose diverse da quelle che sentiamo in Italia. Naturalmente posso sbagliare io a dire che è una cosa utile, sentiamo come la pensano i nostri ospiti. Abbiamo come ospiti Tobias Piller, che è corrispondente della Frankfurter Allgemeine in Italia, lo conoscete, buongiorno e grazie a Tobias Piller. Buongiorno. Paolo Reboani, che è il presidente e amministratore delegato di Italia Lavoro, ha dedicato i suoi ultimi anni, ha scritto libri insieme a Michele Tiraboschi, è stato coordinatore della segreteria tecnica del ministro del lavoro. Buongiorno Reboani. Buongiorno. E Giorgio Santini, che è segretario generale aggiunto della CISL. Buongiorno Santini. Buongiorno. Io partirei proprio da Santini, perché so che tra pochissimo ci deve lasciare. Qual è la sua riflessione A su questi punti o su altri della riforma tedesche? B, lei passa per l'autore di testi di convergenza proprio in questi giorni, quindi le chiedo qual è anche la sua valutazione sul lavoro che sta compiendo, visto che la CISL con Bonanni, il suo segretario, in questi giorni ha detto apriamo un cantiere forte anche sull'articolo 18. Sì. Allora, sulle politiche in Germania, la riflessione, molte cose che lei ha detto sono assolutamente corrette, sono nel senso che lei ha detto. Il punto è che sostanzialmente si partiva da una situazione che era molto avanzata sul piano delle tutele sociali, quindi il piano ARS quella volta sostanzialmente è servito anche a renderle più snelle, più utilizzabili, più veloci, perché si era creata in molti casi anche quella che viene definita un po' la trappola dell'assistenza, no? Cioè il fatto che è talmente alto il sostegno che la gente non ha nessuna motivazione poi per uscirne, eccetera. Non è esattamente paragonabile alla situazione italiana, perché qui abbiamo certamente alcuni istituti che possono assomigliare, però la situazione è molto diversa. Comunque, i temi sono complicati. Il tentativo è quello di dare più fluidità al mercato del lavoro, più velocità, soprattutto di cercare di superare i tanti colli di bottiglia che purtroppo spessissimo paralizzano il nostro sistema. Allora noi ne abbiamo visti due in particolare. Uno è quello di cui si parla meno, purtroppo, è quello di uscire da questa situazione per cui gli ammortizzatori sociali diventano una sorta di luogo in cui si rimane poi fino ad esaurimento, come si dice con un brutto termine, a perdere. Noi dobbiamo portare a casa da questo confronto è un tentativo che abbiamo fatto anche con Reboani negli anni precedenti, con qualche risultato. L'idea che fin dal primo giorno in cui si va negli ammortizzatori sociali ci devono essere impegni delle istituzioni del mercato del lavoro e dei singoli lavoratori che vanno negli ammortizzatori per una ricollocazione o per un percorso di riqualificazione ai fini di un reimpiego. Questo è un principio. Diversamente si deve perdere il sussidio, dispiace dirlo, ma è sbagliato darlo se non c'è questa attivazione delle persone, e quindi sostanzialmente bisogna che passi anche con strutture, anche con politiche, anche con appunto condizionalità, come si dice, questa idea che in Italia fa fatica a prendere piede e responsabilizza tutti, responsabilizza appunto i centri per l'impiego, l'agenzia del lavoro, le imprese, i lavoratori, il sindacato, ed è una cosa importante che dobbiamo fare. L'altra questione è quella dei licenziamenti. Noi ci siamo permessi di fare una proposta, auguriamoci che vada avanti, cioè l'articolo 18 è discusso, come sappiamo in realtà ha una funzione molto minore di quella che viene attribuita, però c'è un'anomalia che nell'articolo 18 sono finite anche impropriamente le procedure per i licenziamenti di tipo economico, cioè quando l'azienda non può mantenere più il posto di lavoro. Noi proponiamo di riportare questi licenziamenti, anche quelli individuali, nella procedura che ci sono per quelli collettivi, che è esattamente una procedura di mobilità, una mobilità che garantisce 2 anni mediamente di sostegno al reddito, ma finalizzata, come dicevamo prima, e dobbiamo farlo di più, alla ricollocazione dei lavoratori. Se noi sblocchiamo queste due, diciamo, rigidità del mercato del lavoro, credo riusciamo a dare un contributo, soprattutto per fare la terza cosa, quella di creare condizioni per assumere con più facilità le persone. Giannino, un punto su cui ho qualche dissenso: i lavori flessibili, no? Lei dice paghiamoli meno. In Italia purtroppo c'è una situazione in cui tra lavoro nero e utilizzo estensivo e molto spesso abusivo, reiterato, di contratti, diciamo così, atipici, si è creata una palude nel mercato del lavoro. Allora, l'idea è incentiviamo, noi parliamo di apprendistato come lei sa, incentiviamo le assunzioni attraverso un canale flessibile e anche che costi meno e che permetta di collegare meglio il lavoratore con l'impresa anche attraverso una calibratura con la formazione. I lavori flessibili non li dobbiamo cancellare, abbiamo un modello tutto sommato che funziona, che è il lavoro somministrato, dove costano uguale agli altri lavori, con un piccolo quid che riguarda il sistema di ammortizzatori sociali. Quel modello è molto flessibile, che la somministrazione può arrivare addirittura al lavoro di una giornata, no? O di una settimana, o di un mese, o di missioni anche più lunghe, è molto flessibile, è regolato, non dà origine ad abusi, non dà origine a forme, diciamo così, che abbiamo visto spesso nel nostro paese, e da questo punto di vista io credo può rispondere all'esigenza dell'impresa di avere la flessibilità quando serve, per i picchi, per le situazioni particolari, per le vicende, pensiamo alla classica pizzeria del sabato sera che ha bisogno di più camerieri perché c'è più gente, cioè per tutte le variabilità che ci sono, senza che questo però diventi abusivismo e, come dire, sottomercato, mercato nero, come purtroppo sta capitando. Mi rendo conto che sono molte cose, però questo in sintesi è il pensiero su cui stiamo lavorando. È ottimista sui punti che ha messo spiegando l'articolo 18? Sì. Convergenza. Perché la proposta è ragionevole, secondo me, perché nel 18 si è creato, anche per un vuoto legislativo, si è creato un sovraccarico di funzioni. L'articolo 18, lasciamo poi perdere le valutazioni che da parti opposte si danno, però storicamente è nato, diciamo, per impedire discriminazioni e abusi. E poi che serva a regolare anche la materia delicata e propria dei licenziamenti economici è una funzione che si è caricata durante gli anni per mancanza di altre normative o per qualche vuoto legislativo, che noi possiamo in questa occasione, visto che ne parliamo insomma adesso apertamente, possiamo affrontare seriamente, quindi riportando l'articolo 18 alla sua funzione storica e invece destinando al tema delicatissimo e molto serio dei licenziamenti per motivi economici quella corsia che ha sempre avuto in realtà, perché i più anziani ricorderanno la 604 sui licenziamenti collettivi degli anni 60 e poi dal 91 c'è la 223, quindi c'è già una corsia nel nostro ordinamento che regola quei licenziamenti. Nulla ci ostacola, se siamo tutti d'accordo, di fare in modo che togliamo queste funzioni sovraccaricate e le portiamo di qua e il 18 continua con le sue funzioni storiche. Questa è un po' l'idea e credo che possa avere anche, io spero, speriamo come CISL, che possa essere un contributo, lo mettiamo lì sul tavolo, per uscire da un impasse che impropriamente ma inesorabilmente rischia di condizionare tutto il negoziato, perché poi, come lei sa, abbiamo 100 ragioni per andare, per trovare accordi tra noi, le imprese e il Ministero del Lavoro, il Governo, poi rischierà invece che tutto fallirà perché si litiga su questo argomento e sarebbe davvero per il Paese un grande, grande passo indietro che non ci possiamo permettere. Va bene, grazie a Santini per questo contributo positivo, diciamo fattivo, ma molto ottimista. Eccoci, tornati in studio. La domanda che faccio a Paolo Reboani e Tobias Piller è quella da cui siamo partiti. A me, se non concesso, che abbia fatto un'efficace sintesi delle riforme tedesche, ma quei quattro punti che mi sembrano comunque distanti, lontani, diversi da quelli che sono al centro del confronto per il tavolo di Elsa Fornero, davvero siamo sicuri che non hanno niente da dire per il caso italiano? Giorgio Santini, che è segretario generale aggiunto della CISL, che sta lavorando, ci ha spiegato come sui testi per l'articolo 18 per evitare lo scontro su questo, avete sentito convinto per esempio che su precariato e lavoro nero la strada indicata dagli interventi tedeschi non sia utile per l'Italia, e in generale dice comunque quelle riforme non si adattano a noi, perché quelle riforme partivano da una condizione che era molto generosa, troppo generosa, e che andava corretta al ribasso. Noi quella condizione troppo generosa non ce l'abbiamo. Che ne pensa Paolo Reboani? Io penso che bisogna guardare con attenzione a quello che stiamo facendo e da analista direi che il suo racconto è molto vicino ma nello stesso tempo molto distante da quello che succede in Italia. Perché dico questo? Perché in realtà tutti e quattro i punti che lei ha elencato, che sono frutto di un percorso decennale in Germania e che vede alla fine di quel percorso dei risultati, non dimentichiamo che le riforme Hartz furono molto contestate nella loro attuazione iniziale e erano molto, come dire, contestate anche nei loro risultati iniziali. Oggi si vede che quelle riforme hanno profondamente modificato atteggiamenti, comportamenti con grandi risultati. Diciamo quei quattro punti sono a mio avviso nascosti oggi dentro il negoziato e meriterebbero di uscire meglio allo scoperto. Faccio due esempi per semplificare. Il primo, lei giustamente ricordava il tema del sussidio e della riforma che ha interessato tutto il collocamento. In realtà noi abbiamo questa riforma già nel mercato del lavoro oggi, ma in realtà è una riforma che non è efficace. Perché non è efficace? Santini giustamente ne ricordava una parte, quella della necessità di dare il reimpiego immediato a coloro che sono con assegno indennità di disoccupazione, ma c'è un punto che rende quella riforma o quell'azione impraticabile ed è, scusate il tecnicismo, il concetto di offerta congrua. Cioè nelle riforme Hartz qualsiasi lavoro che veniva offerto bisognava accettarlo, se non si accettava si perde il sussidio. In Italia c'è un concetto che si chiama offerta di lavoro congrua, per cui se l'offerta ha determinate condizioni può essere accettata, se l'offerta non ha determinate condizioni il lavoratore può rifiutare e non perde il sussidio. Allora questo è un tema sicuramente da mettere sul tavolo e da riformare, perché altrimenti non avremo mai quei risultati. Faccio un secondo esempio. Chiamiamolo eccesso di buonismo, non voler mai dire che una cosa deve essere secca e netta, perché sennò poi come si fa? Ecco, esatto, e questa viene legata a tutta una serie di parametri che ovviamente non saranno mai, come dire, raggiunti. Secondo tema, riguarda il lavoro nero, precariato, eccetera. In realtà anche qui in Italia abbiamo una serie di lavori o di strumenti per fare quello introdotte dalla legge Biagi, ma questi strumenti sono stati poco sviluppati, poco diffusi. Mi riferisco al cosiddetto voucher buono lavoro, il quale ha avuto un grande sviluppo nell'agricoltura e nei servizi, ma che è rimasto, diciamo, comunque uno strumento di nicchia che in una riforma così complessa certamente potrebbe trovare un nuovo sviluppo. Terzo elemento che volevo ricordare, questo per dire quante volte invece le cose si fanno e poche volte si guardano. Lei ha parlato giustamente di un abbassamento del costo del lavoro. Faccio solo notare che con il contratto di apprendistato, che è un contratto particolare che ha alcune caratteristiche, il costo del lavoro per il datore di lavoro è notevolmente oggi già più basso, perché l'apprendista, perché che se ne dica, oggi il beneficio soprattutto sotto l'impresa di 9 aziende e di sgravi contributivi che hanno ridotto i contributi al numero zero, quindi non ci sono per i primi 3 anni contributi. B, beneficia come della riforma appena introdotta sull'IRAP, per cui, come dire, a quei lavoratori non viene applicato per una certa soglia il calcolo dell'IRAP. E terzo, non dimentichiamo che per esempio il proprio Italia Lavoro sta facendo un programma sperimentale in cui viene dato una dote a coloro che assumono apprendisti, quindi abbiamo un costo dell'apprendistato molto inferiore a quello che è il contratto standard. Quindi a volte, diciamo, bisogna anche guardare alle pratiche che noi abbiamo e che non portiamo a termine. No, certamente... giustissimo, su questo io mi riferivo a coloro dal fronte sindacale che dicono che è proprio sbagliato in questo. Non so, Fammoni in televisione domenica pomeriggio, la CGL sosteneva proprio per questo, l'apprendistato costa troppo poco, troppo comodo per le imprese, non funzionerà. Questa era la sua tesi. No, ma infatti questa è una tesi che è sul tavolo e io sono assolutamente d'accordo, che dopodiché che questo pacchetto di riforme in Germania è stato un pacchetto pesante e non è un caso che quel pacchetto era in parte all'origine e anche sviluppato con la legge Biagi, cioè la legge Biagi e tutti i decreti successivi hanno risentito di quella impostazione. C'è solo una differenza, e chiudo, rispetto alla Germania, che in Italia il dibattito sul mercato del lavoro si è sempre condito di un fortissimo approccio ideologico e di stop and go continui, perché il governo Prodi del 2007 fece alcune retromarce rispetto a quelle che era l'impostazione iniziale, cosa che con le riforme ARS non è stato fatto. E bisogna riconoscere che c'è un punto: perché le imprese possano più rapidamente decidere di ristrutturare e quindi evidentemente anche ridefinire i perimetri e anche, dico anche, licenziare e contemporaneamente assumere, il problema però di questi tempi italiani che sono così lunghi a me sembra centrale, perché procedure che durano anni, che sono molto distinte per classi di grandezza delle imprese, perché noi sappiamo che l'ordinaria e la straordinaria è ciò che consente, ha consentito storicamente a grandi gruppi italiani di fare ristrutturazioni a costo collettivo molto più elevato di quanto non sia consentito, anzi impossibile, fino all'estensione alla cassa in deroga a tutti i piccoli, al 99% delle imprese italiane. Ecco, questi tempi così lunghi secondo me sono i tempi che non consentono poi alle imprese di assumere decisioni in tempo realmente utile. La protrazione di questa illusione che tutti possano restare nel lavoro com'era e dov'era, questa io è un altro tabù che proprio non riesco a capire, perché si debba far finta di convergere su questo. A me l'esperienza comparata internazionale insegna, posso sbagliare, che è proprio l'esatto opposto a quello che bisogna fare. Quanto più ci si dà tempi e procedure rapide, quindi questo significa cassa, durata delle indennità di occupazione, sistema per il quale poi se c'è una buona domanda offerta incrociata con un servizio misto pubblico privato non puoi rinunciare a offerte, perché sennò decadi. E però tempi rapidi, anche distinguendo il momento nel quale al massimo in 6 mesi l'azienda decide la ristrutturazione dal fatto che dai sussidi che poi vengono dati ai lavoratori, anche lì con tempi rapidi e distinguendo rispetto all'integrazione sociale. Io la penso così, ma Tobias Spiller che cosa pensa, da osservatore tedesco in Italia da tanti anni, della trapiantabilità di alcune di queste cose tedesche nel nostro paese? Abbiamo il minuto sul traffico e poi ci risponde lui, Tobias Spiller, fino alla fine della trasmissione. Tornano i Doors in sottofondo per ricordarci il nostro continuo evocare la giusta consapevolezza per la crisi della sostenibilità dei debiti pubblici dell'euro, e in particolare in questo paese che non ci pensa proprio a diminuire pressione fiscale per spesa più efficiente. La spesa diventerà più efficiente quando imporrete dal basso alla politica di piantarla, di continuare a dirvi che la spesa non si può tagliare. Solo ridiscutendola si potrà abbassare e concentrare laddove essa davvero serve, non laddove essa serve a perpetuare apparati e interessi, comprese le imprese che vivono al riparo di nicchie di prezzi amministrati, gare truccate e amici degli amici. Questa è la mia sensazione in un paese come quello in cui viviamo, che ha il 52% di spesa pubblica. Ma la domanda che faccio a amico Tobias Piller della Frankfurter Allgemeine è: di questi punti tedeschi hanno ragione i sindacati che dicono non sono adattabili perché la Germania era troppo generosa prima, noi dobbiamo invece costruire dal basso, ed è proprio vero che non c'è niente da imparare per te che stai in Italia da tanto tempo e conosci oramai i pregi, pochi, ma anche i difetti, parecchi, del nostro carattere pubblico nazionale? Che pensi? Certamente non c'è niente da insegnare, ma se facciamo un paragone un po' asciutto, il punto è forse bisogna mettere le cose un pochino in prospettiva. Il obiettivo che al momento la Germania ha raggiunto è quella di avere una grande occupazione, e in questa situazione chi è qualificato e vuole così un posto di lavoro adesso sta in una posizione forte, può anche dire al datore di lavoro eventuale che cosa mi offre, perché devo venire da lei, è quello che si legge sui giornali adesso. E per arrivarci a questo, il punto era che la Germania doveva avere un'economia competitiva sul mercato mondiale. E questo comunque ha comportato un po' di sacrifici prima, anche sacrifici per un pochino di anni. E tra questi punti delle riforme del mercato di lavoro, certamente tanti elementi esistono anche in Italia, ma in qualche modo in Germania sono più operabili in qualche modo. Così c'è questa cosa del mini job fino a 600 euro al mese, che è molto semplice da gestire, e la gente per strada dice mi sto cercando un mini job perché voglio lavorare un pochino ma non troppo. E c'è quest'altro elemento, così la donna delle pulizie c'ha questa possibilità di farsi una cosa che si chiama IOSPA, Ich AG. E in quel senso una gestione semplice di lavoro indipendente. Ma il punto certamente più doloroso di queste riforme ARTS lo possiamo così rendere in un esempio. Un signore dirigente che diventava disoccupato a 52-54 anni, prima poteva anche aspirare di avere prima la indennità di disoccupazione per 2 anni, poi un'altra indennità un pochino più bassa per altri 4 anni, poi un qualche scivolo e arrivare alla pensione. E questa è una soluzione che si vede anche in Italia. Cosa è stata fatta? E per questo è stata odiata questa riforma. Si dice adesso ci diamo la indennità di disoccupazione anche generosa, anche 60-67% quando hai bambini, ma per 12 mesi, massimo per 18 mesi se sei un pochino più anziano. E dopo il nulla. Dopo non ci sono più scivoli, non c'è più altro. Dopo vendi casa, vendi l'assicurazione a vita, e dopo se sei veramente senza nulla ti diamo un aiuto ai poveri per 150 euro al mese, una casa, il riscaldamento e basta. E se poi vuoi ricominciare lavorare, far vedere che sei impiegabile, far vedere che veramente ci riesci ad andare in ufficio ancora ogni giorno alle 9 e così via, ti diamo un lavoretto il cui salario te lo puoi anche tenere pur avendo questo sussidio sociale, e il salario è 1 o 2 euro all'ora. E tanta gente comunque fa anche questo lavoro. E che cosa ha comportato questa situazione? Vabbè, la gente deve cercarsi il lavoro, deve accettare lavori anche un po' meno pagati o un po' più lontani, e in quel senso ha avuto ragione quel signor Hartz che ha detto noi non dobbiamo finanziare la disoccupazione, dobbiamo finanziare l'occupazione. E in fondo con questo ci è riuscito. poi ci sono vari elementi che sono un pochino diversi dall'Italia già dall'inizio, perché ogni anno ci sono più di 500.000 giovani che diventano apprendistato, ma apprendistato in Germania non è solo una cosa meno pagato del lavoratore, del solito lavoratore. Invece si impara un mestiere, c'è un curriculum, si va in scuola con tutti i meccanici dell'automobile in una classe e tutti i muratori in un'altra e così via. Si va in una scuola un giorno alla settimana. E in questo senso è veramente apprendistato, e dopo 3 anni e un esame si ha anche fatto vedere che si è imparato un qualche cosa di pratico. Infine i licenziamenti per ragioni economiche esistono in Germania da sempre. Anche in questo anno scorso, quando abbiamo raggiunto quel massimo di occupazione, sono state licenziate migliaia di persone da aziende che hanno avuto difficoltà, e dall'altro lato sono stati assunti migliaia di persone da altre aziende. È sempre un dramma essere licenziato o avere un'azienda dove si licenzia, ma comunque in queste situazioni succede che entro pochi mesi tutto il dramma è finito. Non si arriva a situazioni quando l'azienda così deve gestire questo problema di troppi dipendenti per anni e anni, alla fine rimane di cotta. Allora, io ti devo interrompere perché abbiamo esaurito il tempo anche oggi. È evidente, io condivido la posizione finale di Tobias Spiller, chiamatemi tedesco, crucco, quello che volete. La lezione dell'efficienza non è che le situazioni sono uguali, bisogna copiare, però c'è di che riflettere, e siamo ancora molto dietro. Dovessi essere io il ministro per Radio 24, la passione si sente. 9 in punto, la versione di Oscar.